GR Sport. Buongiorno da Dario Ricci. Milano è fuori dall'Europa del calcio. Dopo il Milan e l'Inter a dire addio alla Champions, nel ritorno degli ottavi a San Siro passa il Liverpool che dopo il 2-0 dell'andata vince 1-0 con gol di Torres al 17esimo della ripresa. Ibrahimovic e Kroos sprecano in zona gol, i nerazzurri giocano in 10 l'ultima mezz'ora per l'espulsione di Burdisso e Mancini a sorpresa nel dopogara annuncia il suo addio alla panchina dell'Inter a fine stagione. Lo stupore di Kroos a Sky Sport. Cioè, devo dire che mi ha sorpreso un po', no? Però credo che adesso è un po' parlare così. Credo che a volte si dicono delle cose, ma quello sì, lui lo ha detto, sicuramente è una decisione sua, ma adesso siamo appena eliminati di questa Champions, è un po' delusione per tutti, no? Il tecnico dei Reds, Benitez, elogia i suoi ragazzi. Una squadra forte con giocatori giovani, ma la squadra è una squadra che sa che cosa deve fare, con 2-3 giocatori di qualità, che può segnare, può cambiare una partita. Resta quindi solo la Roma a rappresentare l'Italia nei quarti di Champions League. Sorteggio venerdì a Nyon. E oggi in campo per il ritorno degli ottavi di Coppa UEFA a Liverpool va la Fiorentina, che deve difendere il 2-0 dell'andata contro i blu dell'Everton, altra squadra cittadina. E un ex interista, Hector Cooper, torna in Italia. Sarà infatti l'argentino il nuovo tecnico del Parma dopo l'esonero di Di Carlo, il presidente degli emiliani Ghirardi. Abbiamo pensato di non sostituire un allenatore giusto per fare, ma di trovare un valore aggiunto come siamo riusciti l'anno scorso con Ranieri. Brutte notizie intanto per Napoli e Juventus. I partenopei perdono Zalageta per il resto della stagione. Per l'attaccante uruguaiano rottura del legamento crociato del ginocchio sinistro. Per i bianconeri Zanetti resterà fuori un mese per un infortunio muscolare. Spazio alla Formula 1. Dopo le tante voci su un suo possibile addio, alla fine Ron Dennis rimarrà alla guida della McLaren. Secondo la BBC, il boss della McLaren ha rivelato al suo staff di non voler più andare via, malgrado la fallimentare annata 2007 e la spy story contro la Ferrari. Dennis sarà quindi con la squadra a Melbourne in vista del Gran Premio d'Australia di domenica, prima prova del Mondiale 2008. Per l'Eurolega di basket, stasera in campo Roma che si gioca le ultime speranze di qualificazione ai playoff ospitando Barcellona. Domani sera Panathinaikos Siena. Per lo sci scattano oggi a Bormio le finali di Coppa del Mondo, oggi la discesa femminile. Sentiamo Nadia Fanchini. Col podio di Sesteri ho detto come va questa stagione, io ho già fatto il mio, invece poi è arrivato anche l'ottavo posto di Vancouver e poi anche il terzo dell'altro giorno, veramente per me ho già fatto tanto, ho dato tantissimo, voglio veramente dare il massimo di me, poi come va. Annullata invece per maltempo la discesa uomini con la coppa di specialità segnata così allo svizzero Kusch. E chiudiamo col ciclismo, parte oggi la 43esima Tirreno Adriatico, la prima vera corsa a tappe della stagione italiana. Al via molti big, da Zabel a Bonen, da Astarloa a Freire. Al via anche Danilo Di Luca, vincitore del Giro d'Italia 2007, malgrado il procedimento aperto nei suoi confronti dalla procura antidoping del CONI. Vi ricordo l'appuntamento con A Tempo di Sport a partire dalle 14. Ancora una buona giornata da Dario Ricci.